Europa 24. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Ucraina in primo piano. Il Parlamento europeo propone immediate sanzioni mirate ad personam contro funzionari, legislatori ed oligarchi loro sponsor commerciali responsabili della repressione e della morte dei manifestanti in Ucraina. Una risoluzione in tal senso è stata approvata a larga maggioranza dalla plenaria a Strasburgo. E mentre l'Europarlamento, alla vigilia dell'apertura dei giochi invernali di Sochi, ha approvato una risoluzione in cui si chiede che la Russia deve abrogare definitivamente la legge contro la propaganda di relazioni sessuali non tradizionali e quelle che limitano i diritti umani. Ed ora andiamo ad Atene, dove oggi si parla di strategie europee per l'area adriatica e ionica. In diretta dalla capitale greca, Valeria De Rosa. Buongiorno Piera, sì, è in corso la conferenza sulla strategia dell'Unione per la regione adriatica e ionica, un progetto incardinato dalla Commissione e partito a dicembre del 2012. In questi mesi si dovrebbe arrivare ad una conclusione. Da settembre scorso sono state avviate le consultazioni tra i paesi che si affacciano sul Mar Adriatico e sullo Ionio per raccogliere le idee e i progetti. I pilastri sono quattro: una migliore connessione sia in termini di infrastrutture ma anche di collegamenti energetici, e poi un'attenzione all'ambiente con il rispetto e la sostenibilità di questo specchio di mare, aumentare tutte le potenzialità dell'area intesa a tutti i livelli, e poi il risvolto più economico con il turismo, per esempio. È la prima volta che parlando di una strategia macro-regionale si raggiunge un perfetto equilibrio tra paesi dell'Unione, quindi Italia, Grecia, Slovenia e Croazia, e non europei come Serbia, Montenegro, Albania e Bosnia. Ricordiamoci che siamo ospiti appunto della Grecia, che in questo momento ha la presidenza di turno dell'Unione, per cui è per il paese in questo momento un'importante vetrina. E possiamo già dire che sono stati stanziati per questo progetto 50 miliardi di euro. Per il momento da Atene è tutto. Grazie a Valeria De Rosa. La nuova legge di controllo su internet approvata dal Parlamento turco suscita serie preoccupazioni nella Commissione europea. Lo ha dichiarato Peter Stano, portavoce del commissario all'allargamento Stefan Füle. I cittadini hanno bisogno di più trasparenza e non di maggiori restrizioni. Pacchetto energia e clima 2030. Il Parlamento europeo ha approvato a maggioranza una risoluzione non legislativa che chiede alla Commissione di innalzare gli obiettivi alla riduzione del 40% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990. Il Parlamento chiede di affiancare un target del 30% di energia da fonti rinnovabili. La Commissione aveva indicato il 27% e aggiunge l'obiettivo dell'aumento del 40% dell'efficienza energetica rispetto al 2005. Parliamo ora di aerei, rimborsi più facili per ritardi e bagagli persi. L'Europarlamento riscrive le regole dei cieli all'insegna di una maggiore tutela per i passeggeri aerei. Dopo due anni di lavoro, Strasburgo ha approvato la proposta di regolamento che prevede informazioni sui cambi d'orario dei voli entro 30 minuti, rimborsi certi per ritardi e cancellazioni, risposte ai reclami, maggiore flessibilità con i bagagli a mano e tutela in caso di fallimento delle compagnie. Definite in modo più chiaro, inoltre, le circostanze eccezionali che permettono di evitare i rimborsi. Queste le compensazioni previste in caso di ritardi: 300 euro per 3 ore per viaggi fino a 2500 km, 400 per più di 5 ore su tratte tra i 2500 e i 6000, 600 euro per attese superiori alle 7 ore su voli di oltre 6000 km. Quanto ai reclami, se non si ottiene una risposta esaustiva entro 2 mesi, la compagnia sarà obbligata ad accoglierli. La palla passa ora al Consiglio europeo. Se approvate, le nuove regole potrebbero essere introdotte già dall'anno prossimo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punta sull'unione bancaria come ricetta numero uno contro la crisi Guy Verhofstadt, l'ex premier belga candidato alla presidenza della Commissione europea per i liberal democratici. The most urgent thing to do is to have the banking union, because we shall not. La cosa più urgente da fare, dice ai microfoni di Euronet Plus, è l'unione bancaria, perché non possiamo emergere dalla crisi se non abbiamo l'unione bancaria. Per superare la crisi, spiega ancora Verhofstadt, i paesi devono innanzitutto risolvere i problemi bancari, perché il denaro che c'è nelle banche attualmente, e ce n'è parecchio, non viene più trasferito nell'economia reale, alle nostre piccole e medie imprese. Ed è tutto per Europa 24. Scusate, un saluto da Maria Piera Ceci, lascio la linea a tutti i convocati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.